nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, un programma che parla alle donne che lavorano, che sono interessate ai temi del lavoro, e il programma che si batte nella mitica resistenza al multitasking, la più grande fregatura che sia stata inventata per farci sentire in colpa, per far sentire in colpa le donne. L'estate è iniziata e noi abbiamo pensato di farvi compagnia proponendo quello che pensiamo possa essere il meglio delle puntate che sono andate in onda quest'anno. E oggi, tra i tanti temi che abbiamo affrontato, Nessuna è Perfetta, abbiamo pensato di farvi ascoltare la puntata sul rapporto tra i sessi al tempo di LinkedIn. Come ci si comporta quando un collega ti fa un complimento? Buon ascolto. Vi ricorderete la vicenda di Charlotte Proudman. Qualche giorno fa se n'è molto parlato, perché lei, bella avvocata londinese con un master da finire a Cambridge, chiede l'amicizia su LinkedIn a un collega molto più adulto di lei, Alexander Carter Silk, 57 anni, il quale le scrive su LinkedIn: Charlotte, non sarà politicamente corretto dirlo, ma la foto del suo profilo è favolosa, mai vista un'altra così. A mani basse vincerebbe il primo premio. Apriti cielo, benché l'avvocato si sia, come dire, parato un po' le terga dicendo non sarà politicamente corretto dirlo, comunque Charlotte non gliel'ha fatta passare e non solo gli ha risposto duramente su LinkedIn dicendo il suo messaggio è offensivo, io sono collegata per lavoro e non per essere trattata come un oggetto da uomini sessisti, ma ha anche scritto una lettera al capo dello studio dell'avvocato Alexander e ha dato molte interviste. Sulla questione le opinioni si sono ovviamente divise. C'è chi pensa che Charlotte ha fatto bene, in modo che in futuro avvocati e anche altri siano attenti a trattare le colleghe come oggetti sessisti. C'è chi invece pensa che l'avvocatessa Charlotte ci ha un po' marciato e ha cercato visibilità approfittando dell'incauta dichiarazione del suo collega avvocato. È un tema che ritroveremo tante volte nei nostri ambienti e nei nostri uffici, e su questo vorrei proprio sentire il parere del nostro agente provocatore di questa settimana. Una persona che nel suo seguitissimo sito Dagospia di questo, di quanto è accaduto su LinkedIn ha parlato. Insomma, Roberto D'Agostino, benvenuto, buona domenica. Buongiorno a tutti. Beh, la bellezza aiuta o è un danno? Beh, intanto io vorrei precisare alcune cose riguardante questa avvocatessa, che io sul sito ho messo non solo la prima parte che tutti hanno riportato dai giornali, ho messo anche la seconda parte che è uscita su di lei sui giornali inglesi a proposito dei suoi commenti di Charlotte Proudman riguardo su Facebook riguardo agli uomini. Allora, a uno gli ha rifilato hot stuff, cioè sei roba calda, a un altro sei molto affascinante, compagnia varia. Questa signorina, che ancora deve completare il suo master a Cambridge, ha una doppia faccia. Da una parte su Facebook si permette di rifilare ai maschi definizioni che non sono alla pari con stunning picture, che vuol dire un'immagine stupefacente, bella, meravigliosa, cioè tranquilla, cioè se io vedo una signora sei veramente in grande forma, sei meravigliosa, non credo di fare del sessismo. No, fa piacere un complimento se è educato. Non è che gli ha detto, guarda, hai delle belle tette, eccetera, eccetera. Non è che è andato a quel livello lì. Ha detto, ehi, è veramente una, la tua immagine è meravigliosa, la tua faccia è piacevolissima, eccetera. Insomma, cose del genere di questo tipo. E invece lei fa hot stuff, in inglese, tradotto in italiano significa sia proprio buono,